ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Grazie alla distribuzione territoriale, alla scansione temporale delle prove e ad un'accurata e precisa organizzazione, non ci sarà alcuna forma di assembramento o concentrazione di candidati, a dispetto di quanto qualcuno possa sostenere in maniera meramente strumentale. Abbiamo voluto concorsi selettivi, come impone la Costituzione, diversificati per dare a chi ha anni di insegnamento alle spalle il giusto riconoscimento del percorso fatto, ma concorsi seri. Lo abbiamo fatto nella convinzione che il bene della scuola esiga una verifica concorsuale che selezioni chi meriti di accedere alla professione di insegnante. Lo ha ribadito, care ascoltatrici, cari ascoltatori, la ministra dell'istruzione Azzolina, che avete sentito, perché sul super concorso straordinario che si farà con 32.000 posti per i precari il 22 ottobre, ne abbiamo parlato qui effetto notte, non perdete neanche un momento, neanche un giorno, neanche un minuto di effetto notte, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi con un esponente del Partito Democratico, un esponente del Movimento 5 Stelle, perché il Movimento 5 Stelle con la ministra Azzolina insiste che la data deve essere quella del concorso straordinario il 22 ottobre, il PD aveva detto nei giorni scorsi ma forse questa cosa stresserebbe ulteriormente la scuola, che è già in un momento particolare, richiamare tanti insegnanti precari a fare questo concorso creerebbe dei problemi. Oggi sono tornati i sindacati ancora a criticare quella data del 22 ottobre perché dicono è in un momento in cui va salvaguardata la sicurezza da un punto di vista sanitario, ma la ministra Azzolina ha garantito che si farà tutto in sicurezza, quindi lo ha ribadito. Vedremo insomma questa data del 22 ottobre. Dopodiché questa sera, fra i temi che vi sottopongo e che approfondirò con gli ospiti, naturalmente la sentenza che è arrivata oggi dopo 5 anni sul caso Vannini, sull'omicidio di Marco Vannini, ci faremo raccontare, ci sarà anche il legale della famiglia della vittima e poi un collegamento con gli Stati Uniti, perché pare che il primo faccia a faccia di ieri tra il presidente americano Trump e il suo avversario democratico Joe Biden per le presidenziali del 3 novembre sia stato addirittura considerato il peggiore della storia americana. Poi ci faremo raccontare un po' com'è andata. Comunque, pagina Facebook di Effetto Notte, ve lo ricordo, se avete i vostri commenti da fare, le vostre riflessioni, oppure mandateli via WhatsApp al 349-238-6666, 349-238-6666. Quindi partiamo come sempre con la sintesi della giornata. Coronavirus, contagi stabili in Italia e nuove speranze dalla scoperta di potenti anticorpi. 2 senatori 5 Stelle positivi al Covid e scattano i tamponi a tappeto. E intanto in Spagna scatta un lockdown parziale in tutta Madrid. Economia, il governo apre il cantiere per la manovra, ma la maggioranza è divisa sulla riforma del fisco. All'Italia domani l'incontro con i sindacati. Accordo sulla staffetta generazionale a Intesa San Paolo. 5.000 uscite volontarie a fronte dell'assunzione di 2.500 giovani. L'omicidio Vannini, Antonio Ciontoli condannato a 14 anni, 9 anni e 4 mesi invece alla moglie e ai 2 figli. Stati Uniti, il primo faccia a faccia tra Trump e Biden, tra insulti e interruzioni, è stato definito il peggiore della storia americana. Addio al papà di Mafalda, 88 anni è morto Chino, il disegnatore argentino che ha inventato il celebre personaggio di Mafalda. Calcio, tutti negativi i tamponi effettuati al Napoli dopo la partita col Genoa, campionato che al momento va avanti dopo i posticipi del pomeriggio in corso il big match Lazio-Atalanta. Partiamo quindi dai dati relativi al coronavirus in Italia. Resta stabile la curva dei contagi. Dai dati del Ministero della Salute emerge che nelle ultime 24 ore c'è stato un incremento di 1.851 casi, circa 200 più di ieri, ma con circa 15.000 tamponi in più. In leggero calo l'incremento delle vittime, 19 nelle ultime 24 ore contro le 24 registrate ieri. Intanto ci sono nuove speranze che arrivano dagli anticorpi superpotenti isolati da un team americano con la collaborazione dell'ospedale Sacco di Milano. Nel frattempo, oggi il Covid-19 ha fatto il suo ingresso in Senato. L'emergenza Covid ferma Palazzo Madama per un giorno. Da domani, dice la presidente Elisabetta Casellati, si torna al lavoro. A far scattare l'allarme due senatori del Movimento 5 Stelle, Francesco Mollame e Marco Croatti, risultati positivi al coronavirus. Saltate quindi tutte le riunioni di commissioni in programma e il Consiglio di Presidenza. Una precauzione adottata per effettuare i controlli su tutto il gruppo pentastellato e sui componenti della Commissione Industria, di cui fa parte Croatti, che giovedì ha anche partecipato all'Assemblea Congiunta dei Gruppi. Mollame e Croatti ora sono a casa in isolamento. I due senatori positivi sono assenti da giorni, precisa il Collegio dei Senatori Questori. Sono stati comunque mappati tutti i contatti e fatti i controlli, si sottolinea. Già sanificate inoltre l'Assemblea e i locali delle commissioni. Il Senato resta aperto, non ho alcuna intenzione di chiudere, puntualizza la presidente Elisabetta Casellati, ricordando che Palazzo Madama non ha chiuso neppure nel periodo più acuto della pandemia e, osserva Casellati, sarebbe assurdo che succedesse adesso. Domani, dice, tutto dovrebbe tornare alla normalità. Alle 9.30 convocata la conferenza dei capigruppo. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Per quanto riguarda la Spagna, il governo spagnolo, in notizia di questa sera, ha detto di aver raggiunto un accordo con le autorità regionali per l'estensione di un lockdown parziale a tutta la città di Madrid, la capitale dove i casi di positività al coronavirus sono in forte aumento. E poi invece il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, oggi all'ONU ha detto e confermato che 1 milione di persone hanno perso la vita a causa di questo nuovo virus, ma il numero reale è certamente più alto. Avete sentito prima, il Senato italiano quindi prosegue i lavori in una giornata in cui, come si diceva, il numero di contagi riscontrati è sostanzialmente stabile. A preoccupare anche il numero dei vaccini antinfluenzali, quest'anno più importante che mai per la categoria dei più fragili. 1.851 i nuovi casi in Italia, in crescita, ma a fronte di un numero più elevato di tamponi. Sopra quota 200 ci sono Lombardia, Toscana e Lazio, ma la regione con più contagi, 287, è stata ancora una volta la Campania. Numerosi, 170 i casi anche in Sicilia, conferma che il contagio in Italia si sposta sempre più al centro-sud, come certificato dall'Osservatorio sulla Salute delle Regioni della Cattolica di Roma. A preoccupare anche la Sardegna, che ha il primato di positivi, 129 per ogni 100.000 abitanti, seguita dal Lazio, che ne conta 120. Quanto il vaccino anti-influenzale, importante, è stato accertato anche per la lotta al Covid, si apprende che per la popolazione attiva, quella che non ha diritto al vaccino gratuito, ci sono 12 dosi a disposizione per ogni singola farmacia, stando all'accordo raggiunto in conferenza Stato-Regioni. L'Emilia-Romagna ha fatto sapere che metterà a disposizione nelle farmacie 36.000 dosi, pari al doppio della quota prevista. Intanto, la scoperta di anticorpi particolarmente potenti fa ben sperare. Secondo uno studio pubblicato su Science da un gruppo guidato dall'Università di Washington, di cui fa parte anche l'ospedale Sacco di Milano, i due super anticorpi allo studio sono in grado di bloccare la spike, la punta della corona che il virus usa per legarsi alle cellule umane, e il recettore che funge da cavistello d'ingresso. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In serata al Consiglio dei Ministri, all'ordine del giorno la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, ma nella maggioranza si discute anche della modifica dei decreti sicurezza. Una manovra da 40 miliardi, 22 dei quali in deficit, e un rimbalzo del PIL al più 6% nel 2021 sarebbero queste, secondo quanto trapelato, alcune delle novità previste dalla nota di aggiornamento del DEF che stasera sarà sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Il documento che fa da cornice alla prossima legge di bilancio sarà approvato nel Consiglio dei Ministri di domenica, una riunione nella quale è atteso anche il via libera alle modifiche dei decreti sicurezza. Un intervento che in queste ore agita le acque nella maggioranza. Fonti del Partito Democratico vanno all'attacco, sostenendo che una parte del Movimento 5 Stelle sarebbe contraria alla reintroduzione della protezione umanitaria cancellata dai decreti Salvini. Mettere in discussione l'intesa raggiunta a luglio per noi sarebbe inaccettabile, avvertono dal Nazareno. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E a Palazzo Chigi c'è stata anche riunione di governo sul dossier autostrade. All'esame le lettere inviate ieri dai consigli di amministrazione di Atlantia e della stessa ASPI, in cui le società rispondevano all'ultimatum lanciato dal governo una settimana fa con la minaccia della revoca della concessione. Altro importante dossier del governo, quello riguardante Alitalia. Il commissario di Alitalia Giuseppe Leogrande ha convocato per domani pomeriggio i sindacati per fare il punto sulla situazione della compagnia. Secondo fonti del Ministero dello Sviluppo Economico, intanto l'articolo sul Messaggero dal titolo Alitalia nomine bloccate conterrebbe notizie prive di fondamento, e si sottolinea che c'è piena sintonia tra il Ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli e il direttore generale Zeni e nessuna tensione sui nomi. 5.000 uscite, 2.500 assunzioni, raggiunto l'accordo nel gruppo bancario Intesa San Paolo dopo l'integrazione con UBI. Con gli accordi raggiunti dal gruppo Intesa San Paolo e dai sindacati, l'integrazione dell'ormai ex UBI acquista una cornice ben definita sul fronte delle risorse umane. Ci saranno 5.000 uscite volontarie incentivate attraverso il fondo di solidarietà, quota 100 e opzione donna e 2.500 assunzioni. L'amministratore delegato del gruppo Intesa San Paolo, Carlo Messina, sottolinea che sono state confermate 2.500 assunzioni in un quadro di grande complessità e osserva che l'accordo permette di raggiungere un risultato basato per entrambe le parti sulla volontà di tutelare l'occupazione. Sul fronte sindacale, il segretario generale della FABI, Lando Maria Sileoni, parla di primo importante accordo di integrazione estremamente positivo. L'accordo dovrà però essere veloce, efficace e costruttivo nell'interesse dei lavoratori e dei territori. Le uscite, a cui potranno aderire tutti i bancari, compresi quelli di UBI e quelli che passeranno a BIPER, saranno effettuate tra il 2021 e il 2023. Tra le peculiarità dell'accordo c'è quella di essere rivolto a tutti, tanto alle aree professionali quanto ai dirigenti. Per aderire alle uscite c'è tempo fino al 9 novembre. Una volta che sarà chiaro il loro numero, inizieranno le assunzioni. Cristina Casadei, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo alla visita del segretario di Stato americano Mike Pompeo oggi in Italia. Scoppia un caso diplomatico col Vaticano. Nowhere is religious freedom under assault more than it is inside of China today. Mai la libertà religiosa è stata sotto attacco più di oggi in Cina, ha detto il segretario di Stato americano Mike Pompeo nel convegno in Vaticano. Ci aspettiamo più coraggio dalla Chiesa Cattolica nel difendere i fedeli, come fece Giovanni Paolo II, e per contribuire ad abbattere il regime comunista cinese. Gli USA premono perché il Vaticano non rinnovi l'accordo con la Cina per la nomina dei vescovi, ma i vertici della diplomazia, i cardinali Parolin e Gallagher, parlano di strumentalizzazioni a fini elettorali e che il dialogo per la pace è il principio fondante del pontificato di Papa Francesco. Pompeo all'attacco della Cina anche sul fronte economico, con l'obiettivo di convincere gli alleati a fermare gli investimenti cinesi, soprattutto nel 5G. Il Partito Comunista Cinese, ha detto dopo l'incontro con il governo italiano, sfrutta la presenza economica in Italia per i suoi scopi strategici. Il ministro degli esteri Luigi Di Maio ha parlato di saldo ancoraggio dell'Italia all'Occidente e alla NATO, rassicurando Pompeo anche sul 5G. Abbiamo già adottato una normativa che potenzia le capacità governative di monitoraggio sullo sviluppo delle reti dell'infrastruttura 5G. Alessandro Arona, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma. Il caso Vannini. Antonio Ciontoli è stato condannato a 14 anni nel processo bis per la morte di Marco Vannini avvenuta alla Dispoli nel maggio del 2015. Condannati anche gli altri membri della famiglia nella cui casa il ragazzo Marco Vannini, fidanzato della figlia di Ciontoli, è morto per un colpo partito dalla pistola del padre. 9 anni invece e 4 mesi la pena decisa per la moglie e per i due figli di Antonio Ciontoli. Poi tra poco ci sarà spazio per approfondire questo argomento anche con l'avvocato della famiglia Vannini. E ora all'estero. I viaggi di Radio 24. Terza puntata del viaggio di Radio 24 verso le elezioni americane. Quando mancano 34 giorni al voto, affrontiamo una delle questioni più calde di questa campagna elettorale, quella razziale. Dopo la morte di George Floyd, ricordate il ritorno in auge del movimento Black Lives Matter, il tema è divenuto particolarmente caldo nel dibattito pubblico insieme a quello dell'immigrazione. Allora sentiamo le posizioni dei due candidati. Il tema razziale, fortemente connesso a quello migratorio, ha esacerbato gli animi di una campagna presidenziale anomala, profondamente condizionata dalla pandemia e dai suoi effetti nefasti sull'economia. La morte di George Floyd, avvenuta a fine maggio, ha rappresentato uno spartiacque con le proteste popolari che ne sono seguite e gli episodi di violenza urbana che hanno caratterizzato l'estate. When you look at the economic... Donald Trump ha riassunto la sua visione nella frase Law and Order, prendendo non a caso in prestito il titolo di una fortunata serie televisiva. Nel recente caso di Jacob Blake in Wisconsin, Trump ha visitato la località di Kenosha, incontrando la polizia ma non la famiglia dell'afroamericano ferito dagli agenti. Joe Biden ha invece telefonato proprio alla famiglia. Strettamente collegata alla questione razziale c'è la questione dell'ordine pubblico nelle città, con Trump che ha paventato il ricorso alla militarizzazione dei centri. Teatro di proteste. What you all know, but most people don't know, unlike the African American community with notable exceptions, the Latino community is an incredibly diverse community. Sull'immigrazione i due candidati alla presidenza non possono avere idee più diverse. Joe Biden si oppone all'allargamento del muro sul confine messicano, attacca la politica trumpiana di tolleranza zero che ha portato alla divisione di intere famiglie messicane al confine con i bambini separati dai genitori e propone una moratoria di 100 giorni sui rimpatri forzati fino a ipotizzare di accettare una quota di rifugiati internazionali pari a 125.000 persone l'anno, tutte misure in netto contrasto con la linea Trump. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Poi naturalmente ci collegheremo con gli Stati Uniti, perché quella di ieri è stata considerata il primo faccia a faccia di Trump e Biden, il peggiore nella storia americana, poi capiremo perché. Adesso invece ci concentriamo su una vicenda che è avvenuta a Roma. Chiedono l'intervento del governo e della regione Lazio per difendere il diritto della privacy della donna che ha denunciato di avere scoperto in un cimitero della capitale la tomba del feto abortito mesi prima con il proprio nome su una croce, nonostante avesse dato il diniego alla sepoltura. Intanto il garante della privacy apre un'istruttoria per fare luce su quanto accaduto e sulla conformità dei comportamenti adottati da soggetti pubblici coinvolti nell'ambito della propria materia di competenza. A presentare un'interrogazione parlamentare e un'altra parallela al presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti, un nutrito gruppo di parlamentari e consiglieri regionali del Lazio. Inquinamento. L'Italia sta perdendo la sua battaglia contro lo smog. L'85% delle città è infatti sotto la sufficienza per iniziative di contrasto dell'inquinamento dell'aria e per il superamento dei limiti consentiti sulle polveri sottili, oltre che sulle emissioni di biossido di azoto. E tra i peggiori centri urbani ce ne sono 5: Roma, Milano, Torino, Palermo e Como, che prendono un voto pari a zero rispetto al superamento dei valori soglia per la salute umana. Lo mette nero su bianco il nuovo rapporto di Legambiente, che si intitola Malaria, in edizione speciale che analizza l'inquinamento di 97 città del nostro paese. Addio Chino, il papà di Mafalda, aveva 88 anni, disegnatore del celebre personaggio della bambina capellone ribelle. Lo piangeranno tutte le persone buone nel paese e nel mondo, ha scritto su Twitter il suo editore Daniel Divinsky. Figlio di emigranti spagnoli, Joaquín Salvador Lavado, questo è il vero nome del disegnatore, era nato a Mendoza il 17 luglio del 1932. La striscia dedicata a Mafalda, alla sua famiglia, al suo gruppo di amici, è uscita dal 1964 al 1973 in America Latina e in Europa. Venne pubblicata per la prima volta sulla rivista argentina Primera Plana. I libri, tradotti in più di 30 lingue, hanno venduto milioni di copie nel mondo. Per chiudere lo sport, sono tutti negativi i tamponi del primo test effettuato sui giocatori del Napoli dopo le 14 positività del Genoa, che adesso vedo sono diventate 15, e domani la squadra allenata da Gattuso sarà sottoposta a un secondo test molecolare antivirus. Ma di questo parleremo dopo con Giovanni Capuano, mentre adesso Giovanni ci aggiorni sulla partita in corso Lazio-Atalanta, poi nel pomeriggio ce ne sono state altre di Serie A maschile. Prego. Ciao Roberta, bella. Aggiornamento dopo 30 minuti del primo tempo di Lazio-Atalanta, vede i bergamaschi in vantaggio per 1-0, decide fin qui la rete realizzata al decimo minuto di questo primo tempo da Gosens, che ha approfittato di una disattenzione della difesa del Lazio sugli sviluppi di un traversone di Gomez, sponda di testa di Atteboer, palla che è rimasta lì all'altezza del dischetto dell'area di rigore, è arrivato Gosens e l'ha messa in rete. Ci sono state proteste inutili da parte dei giocatori della Lazio che chiedevano fallo per una presunta spinta di Atteboer. È una bella partita, ci sono due squadre di alto livello che si stanno confrontando, l'Atalanta a viso aperto sul campo della Lazio, la Lazio che ha avuto un paio di chance con Luis Alberto Immobile per arrivare al gol del pareggio, che però in questo momento non ha trovato. Parlavi delle partite del pomeriggio, beh, nel pomeriggio abbiamo visto un Inter Valanga Benevento 5-2 con doppietta di Lukaku, gol di Gagliardini, Hakimi e Lautaro Martinez per il Benevento, doppietta di Caprari. Inter che ha segnato il primo gol dopo 28 secondi, quindi di fatto ha messo subito in discesa la partita. E al secondo gol, in questo momento l'Atalanta invece, scusami se sì, ti interrompo Giovanni. Raddoppio dell'Atalanta, ecco. Che è una squadra che sta veramente dimostrando di essere pronta per stare nelle parti alte della classifica. Atalanta che in questi primi 30 minuti sta di fatto legittimando quello che ha già fatto vedere più volte nel corso della scorsa stagione. La rete è stata realizzata da Atteboer, che ha approfittato di un traversone dalla sinistra, si è presentato all'altezza del dischetto dell'area di rigore e al volo piatto destro sotto la traversa ha trafitto il portiere del Lazio Stracoscia. Dunque 2-0 per l'Atalanta, che in questo momento è a punteggio pieno insieme alle altre che si trovano a quota 6 punti. Ti stavo raccontando dell'altro risultato per certi versi storico, perché si tratta del primo successo dello Spezia in Serie A nella sua storia. Spezia che ha vinto 2-0 a Udine con doppietta di Galabino, 29esimo del primo tempo e 50esimo della ripresa. Udinese che resta a quota 0, Spezia dunque che festeggia la prima volta in Serie A. 2-0 è anche il risultato di Lazio-Atalanta a favore dei bergamaschi, Gosens e Atteboer, i marcatori nella prima mezz'ora. e direi che possiamo darti la linea. Ti dico solo che da pochi istanti è ufficiale che non c'è decisione su Genoa-Torino, la gara a rischio sabato, oggi doveva arrivare la decisione della Lega Serie A, aggiornato domani, invece la decisione è scivolata domani, esatto. Bene. Ci risentiamo più tardi, grazie Giovanni Capuano. In questo aggiornamento siamo di corsa verso la viabilità, perché poi dobbiamo cominciare con gli ospiti ad approfondire alcuni temi. Intimissimi uomo, boxer a €7,90 nei negozi e online. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccomi subito con voi, Roberta Giordano, come sempre dalle 21 alle 22 per raccontarvi a fine giornata che cosa dovete sapere di più importante dall'Italia e dall'estero e anche cercare di approfondire alcuni argomenti in particolare con gli ospiti. Comincerei dalla sentenza che è arrivata oggi per l'omicidio di Marco Vannini. Vi faccio un breve riepilogo per coloro che ancora non conoscessero questa storia, questa vicenda terribile. La storia è quella di un ragazzo, Marco Vannini, di 21 anni, morto nella notte tra il 17 e il 18 maggio del 2015 in una vasca da bagno in casa della famiglia della sua fidanzata Martina Ciontoli alla Dispoli, vicino Roma. E che cosa è successo? Marco viene raggiunto da un proiettile alla spalla che poi arriva sino al cuore. Il padre della fidanzata, Antonio Ciontoli, nell'iter processuale ha detto di essere stato lui a sparare. Era entrato in bagno, gli voleva far vedere questa pistola per scherzare. È partito il colpo, dice, per errore, mentre mostrava l'arma a Marco. Per questo si era visto nel processo di appello ridurre la pena, quindi dopo il primo grado che l'aveva condannato a 14 anni, si è visto ridurre la pena da 14 a 5 anni. A febbraio scorso, però, vi ricordate, ne abbiamo parlato con l'avvocato della famiglia Vannini, i giudici della Cassazione hanno deciso che era necessario un appello bis, un processo di appello bis per l'omicidio di Marco a carico di tutta la famiglia di Antonio Ciontoli, che comunque è stato sempre il principale imputato dell'omicidio. Secondo l'accusa e quindi la requisitoria della procuratrice della Cassazione, ad Antonio Ciontoli, sottufficiale della Marina, non sfuggì per errore un colpo di pistola, ma sparò per uccidere. Intanto la moglie Maria Pezzillo e i due figli, che sono appunto Martina e Federico, Martina era fidanzata di Marco, anziché prestare soccorso alla vittima, cercarono solo di nascondere l'accaduto, persero tempo prezioso e questo condannò a morte il povero Marco. Oggi è arrivata la sentenza dell'appello bis, ne parliamo con Emanuele Rossi, cronista del Messaggero. Ciao Emanuele, grazie della disponibilità. Di nulla, buonasera, un saluto anche a tutti i radioascoltatori. Emanuele, quindi è stato totalmente accolto l'impianto della Procura Generale in questo processo d'appello bis? Sì, anche se diciamo il Procuratore Generale Vincenzo Saveriano aveva chiesto 14 anni anche per tutti i familiari di Antonio Ciontoli e in subordine 9 anni e 4 mesi. È una richiesta, ecco, una seconda richiesta dell'accusa che oggi è andata bene anche alla famiglia di Marco Vannini, ai genitori, a Marina e Valerio, che si sono andati diciamo con un pianto liberatorio, hanno accolto appunto questa sentenza, sentenza bis, ecco, dell'appello, che ha cambiato, stravolto, diciamo, della situazione, come già comunque delineato, tracciato dalla Cassazione il 7 febbraio di quest'anno. Infatti, e ne parlammo proprio con l'avvocato, che ti farei sentire all'ascoltatrice e all'ascoltatore Emanuele, poco fa, poi aveva un impegno televisivo, ne ho parlato proprio con l'avvocato della famiglia Vannini, Celestino Ignazzi, gli ho fatto sentire prima di tutto l'audio che già conosceva oggi, insomma, della reazione della mamma di Marco alla sentenza, Marina, insomma, che in lacrime ha detto è stata fatta giustizia. Sentiamo. Grazie a tutti. Marina. C'è anche il sindaco di Genova. E oggi finalmente, dopo più di 5 anni, siamo riusciti ad ottenere quella giustizia che aspettavamo. Allora, questa era la mamma di Marco Vannini, il povero Marco Vannini, Marina, che in lacrime, una volta arrivata la sentenza, ha detto finalmente dopo 5 anni abbiamo ottenuto giustizia. E in effetti la condanna per Antonio Ciontoli è stata di 14 anni per sia la moglie che i figli, 9 anni ciascuno. Quindi, avvocato Celestino Ignazzi, è una condanna che ritenete, insomma, adeguata? Concordo in quello che ha detto Marina, è stata fatta giustizia, non cercavamo, quindi volevamo che fosse affermata la giustizia e per giustizia intendevamo, secondo il nostro punto di vista, che fosse affermata la penale responsabilità di tutta la famiglia, perché tutti responsabili di omicidio volontario, sia pure sotto quel particolare profilo del dolo eventuale. Questa è stata l'affermazione della Corte di Assise d'Appello nel solco della strada tracciata dalla Cassazione. È stato ritenuto anche che i familiari abbiano, per non essere troppo tecnici, una responsabilità minore, mettiamola così. Il termine è concorso anomalo, però, no? Concorso anomalo in omicidio volontario. Concorso anomalo in omicidio volontario, che comporta, diciamo, può comportare, come nella fattispecie, uno sconto di pena di un terzo, di un ulteriore terzo, per arrivare a 9 anni e 4 mesi. Ma quello che a noi interessa è l'affermazione della responsabilità per omicidio volontario, questo che avevamo sempre sostenuto e questo che ha dichiarato la Corte di Assise d'Appello. Senta, Avvocato Ignazzi, però quando Ciontoli più volte ha detto che anche nel percorso processuale, insomma, negli altri processi, ha detto che è stato un errore, che il colpo è partito, che lui stava scherzando con quest'arma, la faceva vedere a Marco, invece è accusato di omicidio volontario, cioè intenzionalmente lui gli ha sparato, si è capito perché, Avvocato Ignazzi? L'accusa di omicidio volontario dipende dal comportamento successivo di tutti, dal comportamento di tutti, ma successivo all'esplosione del colpo. Quel colpo, secondo il capo di imputazione, è stato sparato accidentalmente e quindi non punibile a titolo di omicidio volontario. È il comportamento successivo di tutti che hanno messo i soccorsi, ritardato i soccorsi a costo di far morire quel ragazzo ed accettando come eventualità pressoché certa la morte di quel ragazzo, pur di salvaguardare la loro rispettabilità il posto di lavoro. È il comportamento successivo allo sparo. È chiaro. Avvocato Ignazzi, quindi a questo punto, questo era il processo di appello bis, c'è la possibilità di ricorso di nuovo da parte dei Ciontoli oppure no? Sì, tecnicamente c'è la possibilità di ricorso in Cassazione, sarà certamente proposto dopo, entro i 60 giorni della motivazione della sentenza e dunque intorno a gennaio-febbraio, diciamo così. È presso me scontato che si proponga il ricorso da parte delle difese, a mio avviso però è una strada a questo punto in salita, tenendo conto non solo quello che dirà la sentenza della Corte d'Assise d'Appello nelle motivazioni che leggeremo, ma soprattutto quello che ha già detto la Cassazione. È una strada segnata, insomma. Ecco, Emanuele Rossi, hai sentito, insomma, l'avvocato poco fa, Ignazzi? Sì, ho sentito. È effettivamente così, nel senso che la verità poi di questa storia e di come è stata tracciata dalla Cassazione, e ricordiamoci anche le parole del sostituto procuratore Elisabetta Cennicola, che aveva definito questa storia gravissima e disumana, sì, vero, nella sua requisitoria, e appunto la verità, che poi magari si leggerà nelle motivazioni di questa nuova sentenza, ecco, potrebbe emergere proprio in quei 110 minuti in cui Marco Vannini è stato lasciato morire agonizzante. Quindi lasciamo stare il colpo di pistola di cui si è assunto la responsabilità Antonio Ciontoli. Certo. Però importante è il dopo. Ecco, sono passati nessuno... 40 minuti prima di chiamare il pronto soccorso perché volevano capire come nascondere la faccenda. Addirittura il padre di Antonio Ciontoli, quello che ha sparato, aveva detto al pronto soccorso. Adesso sentiamo anche la telefonata, perché l'audio poi è stato ripulito da tecnici americani e si capisce abbastanza bene questa chiamata al 118, che lui dice che si è punto che si è fatto male con il dente di un pettine che ha un buchino in realtà, però si sente in sottofondo. Si sentono le urla di Marco. Sentiamo questa telefonata. Il nome qual è? Marco Vannini. C'è uno squarcio, c'è un taglio, cosa c'è? C'è un buchino. È un buchino? È andato in panico e... Ma che... Sta urlando, ma ti è sentito male? Sì, è andato in panico. Panico è questo. Ok, sto chiamando un'ambulanza, va bene? Ok, grazie. Salve. Impressionante, no, Emanuele? Sì, anche perché poi ce ne sono due di chiamate. La prima parte alle 23:41 e viene effettuata in realtà dal figlio e poi dalla moglie, che blocca addirittura la richiesta di intervento. Passano 24 minuti esatti e scatta la seconda chiamata, quindi si perde tempo. Immaginate, sì, tempo questo prezioso. Ragazzo che ha il polmone e il cuore perforato da un proiettile, come possa gridare, stare male, addirittura chiedere aiuto della madre, fa venire ancora i brividi, sì, a distanza di 5 anni. E quindi una serie di circostanze che portano ad un'assurda agonia, ecco. Avrebbero, sì, anche così. Questo aspettare davvero tutto questo tempo per salvare, come diceva l'avvocato, l'onore e il posto di lavoro di Antonio Ciontoli, sarebbe bastato chiamarlo subito, il pronto soccorso, avrebbero potuto salvare il povero Marco. Oggi, mi confermerai Emanuele Rossi, Antonio Ciontoli prima dell'udienza ha chiesto di poter fare delle dichiarazioni spontanee, ha detto: chiedo perdono per quello che ho commesso e anche per quello che non ho commesso, so di non essere la vittima ma il solo responsabile di questa tragedia. Sì, ha rotto il silenzio anche oggi, lo aveva già fatto per ribadire ciò che pensa lui e che è poi la tesi difensiva dei Ciontoli, e che è l'unico responsabile di tutta questa storia, che gli altri, appunto, i fanciulli non si siano accorti di nulla. Quando però poi il figlio ha trovato il bossolo, Martina in alcune intercettazioni viene inquadrata poi anche dall'accusa nel bagno, quindi il luogo, la scena del crimine, quindi evidentemente secondo i giudici è molto difficile credere alla versione che nessuno si sia reso conto di uno sparo che, come ha detto anche Saveriano, il procuratore generale, è in grado di rompere la carrozzeria di un'auto, quindi immaginiamo in un ambiente domestico la potenza anche del rimbombo, la potenza, esatto, di uno sparo, una peretta calibro 9, quindi un Marina, la mamma di Marco, quando le ha chiesto perdono Antonio Ciontoli, le ha detto deve chiedere perdono a se stesso. E su questo, Emanuele Rossi, ti ringrazio e chiudiamo. E vediamo, così abbiamo risposto anche con l'avvocato a qualche ascoltatore che chiedeva: ma ora possono tornare in Cassazione? L'avvocato ha detto sì, ma secondo lui, insomma, ci sono poche possibilità che possa cambiare il verdetto. Vedremo. Grazie Emanuele Rossi. Ricordo, grazie a voi. Buona giornalista serata. Del Messaggero, buon lavoro. Pausa di riflessione, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp, altrimenti pagina Facebook di Effetto Notte, tra poco. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Proseguo le notizie da approfondire, naturalmente, qui Effetto Notte, Roberto Giordano sempre con voi, e come primo tema abbiamo parlato della sentenza che è arrivata oggi sul caso Vannini, abbiamo parlato con l'avvocato della famiglia della vittima e con Emanuele Rossi del Messaggero, di questa vicenda incredibile che dopo 5 anni arriva a questa sentenza, con 14 anni di condanna per Antonio Ciontoli, considerato il principale responsabile della morte di Marco Vannini nel 2015, a 21 anni, e poi però anche per la moglie e i figli, 9 anni e 4 mesi ciascuno. Adesso invece ci spostiamo su altri temi, mentre vedo i vostri messaggi al 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire in qualsiasi momento. Mentre vedo anche chi già scrive, per esempio, cose sul dibattito, il peggiore della storia, così è stato definito, tra Biden e Trump, ne parleremo dopo. Adesso invece restiamo su terreno italiano con il nostro Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Caro Alberto, buonasera a tutti. Bentornato Alberto, sempre grintoso, sempre tonico ti sento. Meno male. Soprattutto qua, quando si parla di manovra economica, perché il governo apre il cantiere per delineare la manovra economica e si va verso l'esame del NADEF. Allora tu dimmi Alberto, io forse mi è sfuggito, negli anni scorsi io non vedevo scritto NADEF, ero io che ero distratta con NADEF. No, il NADEF c'è da un po', è un orribile acronimo, nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, ecco, sciolto vuol dire quello. Sostanzialmente è la traiettoria di quello che succederà ai conti pubblici in questo scorcio di anno e nell'anno prossimo. Come sappiamo, da quello che abbiamo visto, c'è un po' l'indicazione della cornice. Sostanzialmente parliamo di una quarantina di miliardi in gioco. 20 saranno destinati alle cosiddette manovre, che sono poi le operazioni che la politica economica fa per le varie azioni che il governo mette in campo per aumentare la crescita, insomma, per creare le condizioni per far ripartire l'economia e quant'altro ogni anno. e altri 20 miliardi invece saranno frutto di un'anticipazione del recovery fund europeo in qualche forma, sostanzialmente, che l'Europa ci abbuona sul fronte del deficit. Quindi stiamo parlando, ripeto, di una quarantina di miliardi in gioco. I 20 miliardi della manovra saranno divisi tra tre capitoli importanti: sanità, lavoro, welfare, per lo più. Mm. E stiamo parlando grosso modo di un 6 miliardi che si giocheranno 50-50 i due capitoli della decontribuzione per far assumere nuovo personale, nuovi giovani, e la nuova forma di assegno unico per la famiglia, per i figli, che però è una delle grandi cose, grandi novità, no? Infatti, però, Alberto, mi sembra che, così come su altri temi, insomma, sul fisco le posizioni all'interno della maggioranza siano un po' distanti sulla riforma del fisco, no? Questo è l'introduzione dell'assegno unico per i figli, è un primo passo, però per il resto ancora ci deve essere accordo? Ah, siamo molto indietro. È chiaro che la riforma fiscale a questo giro, rispetto ad altre volte, ha l'ambizione di essere una riforma veramente di sistema. Teniamo conto, l'ultima è stata fatta da Visco e quella prima ancora è roba degli anni 70, degli anni 80. Quindi stiamo parlando di una revisione delle aliquote, una messa in campo di una revisione dell'IRPEF, e quindi c'è questa grande suggestione del cosiddetto modello tedesco, cioè un'aliquota sostanzialmente personalizzata che viene calibrata con piccoli tagli rispetto ai singoli redditi, non più quindi le cinque aliquote, le quattro aliquote a cui siamo abituati, ma una cosa progressiva disegnata su ogni singola busta paga, su ogni singolo reddito, che è un po' il modello tedesco. Su questo non però c'è accordo, sembrava, no? Ci fosse intesa, ma l'Italia Viva si è messa di traverso in modo abbastanza deciso. Piace all'EU e al Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, insomma, diciamo, un po' tiepido su questa cosa, Italia Viva non ne vuole sapere. Quindi a questo punto il prossimo passo, Alberto, verso la delineazione della manovra economica, che tra l'altro quando deve essere presentata come scadenza? Quella deve essere presentata, diciamo così, in ottobre, perché bisogna poi aprire la sessione di bilancio che dura fino a fine anno, quindi abbiamo tempo poco effettivamente. Infatti non a caso domenica ci sarà un consiglio dei ministri straordinario proprio per mettere a punto la NADEF, che è il primo passo verso poi la nuova legge di bilancio, che parlerà poi la sessione di bilancio, che sono gli ultimi due mesi dell'anno. C'è una cosa che un po' colpisce, che hanno inserito una crescita nel 2021 del 6%. Che ti sembra eccessiva? Ecco, diciamo così, rispetto al consensus che viene dato dai vari centri studi, è abbastanza ottimistica, contrariamente al solito, perché normalmente il ministro dell'economia è sempre un po' stretto sulla crescita e sul PIL, in modo da poter dire poi a metà dell'anno in corso di che la crescita è andata meglio, quindi i conti vanno bene, eccetera. Il 6% che garantisce appunto quel quadro a sommi capi che abbiamo citato prima è forse un po' tanto ottimistica, diciamo la verità. Dimmi una cosa in chiusura, Alberto, ma in che modo si potrebbe intrecciare la presentazione della manovra economica e poi invece il recovery plan, il piano che il governo deve presentare per ricevere il recovery fund, i fondi, insomma, da parte dell'Europa? C'è una qualche connessione? C'è una modalità di anticipazione di meno del 10%, quello si sapeva fin dall'inizio del recovery fund sul bilancio già dell'anno, perché sappiamo tutti che il recovery fund vero e proprio arriverà nella seconda metà del 2021. Fino ad allora avremo sicuramente problemi di cassa enormi, tanto è vero che la discussione è: ma siccome abbiamo problemi per sei mesi, perché non prendiamo il MES che è attivabile in 20 giorni, visto che le procedure sono già pronte? E lì però c'è uno scoglio politico nei 5 Stelle. Tra PD e Movimento 5 Stelle, il PD che vorrebbe, come anche Forza Italia, dall'altra parte il Movimento 5 Stelle che non lo vuole, così come anche Lega e Fratelli d'Italia, no? Diciamo che è abbastanza trasversale l'una e l'altra posizione tra maggioranza e opposizione. Vabbè, per il momento ci fermiamo qua. Grazie caro Alberto Rioli. Buon lavoro, grazie. Ciao. Alberto, e c'è la viabilità. Voi, se potete, volete scrivere i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte oppure WhatsApp al 349 238 6666, dove per esempio c'è questo ascoltatore che, a proposito di quello di cui parleremo tra poco, Tobia da Padova dice: cara Roberta, purtroppo non ci siamo liberati della violenza fisica del secolo scorso, ma l'abbiamo in parte sublimata in violenza verbale, che ha finito per sopraffare la dialettica e la ragione. Mi rattrista, dice Tobia, ma non mi stupisce che il dibattito politico in uno dei paesi più democratici abbia raggiunto nuovi bassi fondi, dice Tobia. Ne parleremo tra qualche istante. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta... Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Well, it's hard to get any word in with this clown. There's nothing smart about you, Joe. 47 years, you've done nothing. Well, let's have this. Maybe you could inject some bleach in your arm, and that would take care of it. This is the that same man. That was said sarcastically, and you know that. The question Supreme is, Justice, the radical question, left. Will you shut who is up, your, man? Listen, who is on your list, Joe? Questo, this who's on your list? Questo scambio molto incalzante questa notte, ora italiana, erano le 3 di notte, ma erano le 21 negli Stati Uniti, del primo faccia a faccia che ieri avevamo presentato, annunciato e anticipato con il nostro Riccardo Barlam dagli Stati Uniti, perché appunto un momento cruciale, primo di 3 dibattiti televisivi, 3 faccia a faccia tra il presidente americano Donald Trump e il suo sfidante democratico Joe Biden. Sapete che si vota per le presidenziali americane il prossimo 3 novembre. Però, caro Riccardo, ciao Riccardo. Ciao, ciao, buonasera a tutti. È vero che è stato definito tra insulti, confusione, caos, il sovrapporsi continuamente, l'interrompersi, praticamente è stata definita come è stato definito come il peggior dibattito presidenziale della storia americana? Sì, lo scrive l'editorialista del Washington Post, Dan Bass. Dice che lui a memoria storica non ricorda un evento dal vivo, un dibattito presidenziale come questo, appunto invettive, interruzioni, insulti, qualcuno l'avete sentito, no? Clown. Biden che dice clown a Trump, sì, Trump che ha detto non ha mai fatto nulla di intelligente. Insomma. Sì, ma al di là di quello che hanno detto, la cosa interessante è questi due uomini insieme fanno 150 anni, capite che dovrebbero avere un'idea di futuro e invece hanno fatto un ring di pugilato. E Trump ha dominato la scena, ovviamente, perché lui ha fatto come se fosse in un reality show, quindi ha attaccato, non ha rispettato le regole del dibattito. C'era questo povero giornalista, devo dire, per lui è stata la persona più il moderatore, incubo, no? Immagino il moderatore Chris Wallace, perché c'erano questi sei momenti con 6 argomenti da 15 minuti l'uno, in cui lui faceva una domanda. Chris Wallace è un conduttore di Fox News, la rete televisiva che piace a Trump, conservatrice, ma non è uno di quelli che piace a Trump, perché lui fa le domande scomode anche agli amici e anche precise. E comunque questo qui era sovrastato anche da Trump, che interrompeva anche l'intervistatore, perché doveva rispondere, ognuno doveva rispondere 2 minuti a ogni domanda e poi ci sarebbero dovuti essere 10 minuti di dibattito. Ne avessi sicuro, è stato complicatissimo arrivare ai 90 minuti a seguire tutta questa serie di insulti con interruzioni continue, insomma, sempre Dan Bass, non lo dico io, perché poi mi dicono, ma tu sei come dire, prendi posizione. No, vi assicuro, non prendo posizione, ma è stato un cattivissimo esempio e anche dello stato di salute della democrazia. Ma leggo un messaggio di Cristiano, scusami Riccardo. Prego. Che dice: ho intravisto qualche passaggio questa notte del confronto Yankee, 2 settantenni fintissimi, patetici, una recita a ingiuriarsi stancante e ridicola. Insomma, ecco, questo è... Sì, nessuno ha dato un'idea di futuro, di come dovesse, di valori, di politiche, di come vedono l'America fra 4 anni. In realtà questo è il problema di fondo. E la cosa che viene fuori poi dai sondaggi è che oggi, per esempio, di solito questi dibattiti televisivi negli ultimi anni non sono serviti molto a cambiare le cose. Vi ricordo solo che Hillary vinse i 3 dibattiti con Trump e poi è andato a finire in un altro modo. Ma per dire, oggi dove diciamo Trump ha dominato assolutamente, Biden in alcuni momenti faceva anche tenerezza, perché veramente si assentava, sembrava che non ci fosse dall'alto dei suoi 77 anni. Poi quando per esempio Trump in modo l'ho attaccato personalmente sul figlio, insomma, c'è stato un momento che io pensavo, oddio, adesso comincia a piangere, e poi non è successo. Però per dirvi come quest'uomo che ha i toni moderati, che si era molto preparato per questo appuntamento bene, perché sapeva di dover contrastare una specie di bulldozer, non è riuscito a far molto, perché le cose che lui ha detto, anche il tono con cui le ha dette, non riuscivano a sfondare rispetto all'altro, che era veramente come un elefante che correva in un in un negozio pieno di cristalli. E oggi i sondaggi, dai sondaggi si vede che Trump ha guadagnato, e adesso la media dei sondaggi nazionali, secondo questo sito che lì ogni giorno fa la media di tutti i sondaggi, che si chiama Real Clear Politics, Biden è al 6% di vantaggio, due giorni fa era al 10%, e negli stati chiave, i cosiddetti swing states, questo divario è al 3,5%, quindi sono lì, e sia che vincerà Trump o che vincerà Biden, lo scenario più preoccupante per gli Stati Uniti è che non sarà una vittoria piena, ma una vittoria, come dire, con un margine ridotto, e lo scenario peggiore è quello che può avvenire nei due casi, perché questa instabilità della prima potenza americana non piace a nessuno, certo, non piace condiziona tutto il mondo, ma tra l'altro Riccardo pare che abbia quindi ribadito Trump che ha rievocato lo spettro dei brogli, ha detto per sapere il risultato ci potrebbero volere mesi, no? Un messaggio di Trump come se non volesse accettare poi l'eventuale risultato. Sì, lui lo continua a ripetere, ma non è così, però c'è questo discorso del voto postale, ci sono tutti gli stati, gran parte degli stati americani hanno cambiato le regole quest'anno elettorali, e alcune leggi non sono state ancora definite, mancano 5 settimane, hanno cambiato le regole per consentire a più persone a ampliare questo voto postale, in un anno in cui c'è il Covid, qui in America non tutti usano mascherina, non tutti sono al distanziamento, e tanta gente non va a votare, quindi, ovviamente, certamente perché ha paura. Trump su questo si attacca e ovviamente dice che non lo ripete sempre, che non ci sarà una transizione pacifica, e a lui e alla Corte Suprema dalla sua parte, e insomma questo scenario di un po' inquietante come scenario. Inquietante. Beh, non è il massimo. Grazie Riccardo Barlam dagli Stati Uniti, vedremo. Buon lavoro, un abbraccio, ciao Riccardo. Grazie. Ora spazio invece a Giovanni Capuano, che continua ad aggiornarci su Lazio-Atalanta. Mi sembra tutto a favore dell'Atalanta questa partita di Serie A maschile. Sì. Giovanni. Decisamente, ciao Roberta. Secondo tempo che è iniziato da 90 secondi, in questo momento il parziale, ci eravamo lasciati sul 2-0 per l'Atalanta, è diventato di 3-0 per la formazione bergamasca, che dopo i gol di Gosens e De Boer, che avevamo raccontato praticamente in presa diretta al 10° e al 32°, ha trovato al 41° anche il 3-0 con il Papu Gomez, con un bel diagonale sul secondo palo che ha battuto stracoscia. Atalanta che ha letteralmente dominato i primi 45 minuti di gioco, chiusi sul 3-0. È vero che c'è stata una traversa della Lazio e un paio di conclusioni, un paio di occasioni con Immobile, Luis Alberto, però è anche vero che l'Atalanta ha dato l'impressione nel primo tempo di poter andare in porta praticamente quando voleva, e questo conferma lo straordinario momento di forma della formazione bergamasca e anche la grande maturità dopo che in estate è arrivata a un passo dalle semifinali di Champions League, e quindi non si può veramente più parlare di sorpresa. Dunque 3-0 quando siamo nel terzo minuto del secondo tempo. Poi le altre partite, Giovanni, l'abbiamo detto, Udinese Spezia, lo dicevi prima, 2-0, e Benevento Inter con la vittoria 5-2 dell'Inter, con la doppietta del... Sì, questo è un campionato che sta facendo vedere tanti gol, bisogna anche essere onesti, bisogna dire che ci sono squadre che si presentano poco attrezzate, insomma il caso del Benevento oggi, la differenza di valori in campo tra Inter e Benevento è stata evidente, poi la partita si è messa in discesa dopo 28 secondi con il gol dell'1-0 di Lukaku, e da lì in poi è stato tutto molto facile, però è un calendario che propone delle grandi partite, perché ad esempio nel weekend che arriva, Covid permettendo, si giocheranno Juventus-Napoli e Lazio-Inter, quindi insomma avremo due confronti che diranno parecchie cose sulle squadre che stanno nella parte alta della classifica. E per concludere, Giovanni, ci ricordavi anche prima che il Consiglio di Lega di Serie A tornerà a riunirsi domani per valutare gli ultimi aggiornamenti legati ai tesserati del Genoa che sono risultati positivi al Covid, no? Sì, e che sono diventati 15 perché si è aggiunto Berami, il Genoa ha pubblicato i nomi di tutti e 15, quindi abbiamo la conferma che si trattava di 10, ora sono diventati 11 giocatori più 4 componenti dello staff, non è ancora da dare per scontato che si vada a un rinvio di Genoa a Torino, che ricordiamo è in programma sabato alle ore 18, però insomma la riunione di oggi ha parlato solo di quello, mentre al di fuori c'era un ampio dibattito sull'idea addirittura di fermare il campionato, fino a che il ministro Spadafora, ministro dello sport, ha detto che non ci sono le condizioni per fermare tutto. Ci sono i tamponi tutti negativi per i giocatori del Napoli, che domani faranno un altro giro di esami. Napoli che ha atteso, e ne parlavamo prima, domenica, dalla partita con la Juventus, c'è insomma la sensazione che si provi ad arrivare comunque a giocare regolarmente questa giornata di campionato, anche perché poi ci sono le due settimane di sosta per le nazionali e quindi diciamo che la Serie A in un certo senso potrebbe essere aiutata quasi già naturalmente dall'andamento del calendario a creare una sorta di momento di stop, quarantena almeno per la gran parte dei giocatori. Grazie Giovanni Capuano, ciao Giovanni. Grazie a te. Ciao Giovanni, ratta come una folgore, poi lo sapete torno alle 22 ad aggiornarvi. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.